E buonasera a tutti e benvenuti su Ai Colori dell'Anima, trasmissione che come sapete va in onda ogni lunedì dalle 21 alle 22. Sono le 21:05 di questo 16 di settembre e noi riprendiamo le trasmissioni post vacanza, quindi comincio con il salutare subito Anna Maria. Ciao Anna Maria. Buonasera a tutti. E naturalmente Fiorella. Buonasera a tutti. Naturalmente perché? Perché Fiorella ormai sta prendendo quasi il vizio di venire qui con noi ai Colori dell'Anima, giusto? È un vizio che mi piace Ecco, e non va lo voglio bene. E noi siamo perdere. contenti che tu sia qui con noi. Abbiamo anche un ospite, però è un ospite silenziosa, quindi non la facciamo parlare. Comunque, un'amica che è venuta con noi, che si chiama Monica, che è arrivata proprio oggi dal nord Italia e che ci farà compagnia in silenzio. Allora, dunque, prima di tutto, cominciamo col dire come sono andate le vacanze. Anna Maria, sei contenta? Ma le vacanze vanno sempre bene, più o meno. Certo, il rientro è un po' uno shock. Quindi le vacanze vanno bene, però sì, adesso va molto di moda lo stress dopo vacanza. Dopo vacanze, più che altro l'idea che sia già cominciato l'inverno, perché qui ormai Già. l'inverno, eccolo, ormai sappiamo che questo tempo di oggi durerà ancora a Certo, lungo. Non siamo ancora pronti, secondo me. certo. E a te Fiorella, le vacanze? Benissimo, Benissimo. forse perché pensavo al rientro, non lo so. No, no, sono stata molto bene, sono stata in Italia un po' zompettando a destra e a sinistra fra genitori, amici, figli. E io vengo, poi ho fatto Roma, ho rivisto Roma, il 15 agosto non c'era nessuno, a parte io e mio figlio che giravamo, doveva riprendere l'aereo. Dunque è stata un po' una, come dire. Ho rivisto Roma come alcuni film degli anni 50, quando Roma silenziosa, c'erano due o tre Le macchine. vacanze romane. Sì, degli altri, perché non c'era nessuno. Comunque siamo tornati, questo sì. E tu, Rosanna, come sono andate le tue di vacanze? Le mie vacanze sono andate bene perché sono stata al mare e devo dire che penso come molti italiani, probabilmente non tutti, ma non sono vacanze se non vado al mare. Faccio questa associazione che per me non si staccherà mai. Vacanza uguale mare. Ma credo che questo sia un po' per tutti, ad associare il mare al No, no, no, relax, no, alla no. Ci sono vacanza. quelli che No. adorano la montagna e che non Eccomi. pensano proprio che Io non ne mare. conosco molti comunque. Eccomi. Ah! Perché Rosanna siamo di due parti dell'Abruzzo, lei è del mare, io sono, cioè la mia mamma è di L'Aquila, dunque io ho sempre fatto le mie vacanze in montagna. Anch'io sono dell'entroterra marchigiano, però per me la vacanza è mare. Ah no, per me la montagna era la montagna, anche perché in paese c'era la libertà dalla mattina alla sera. Al mare invece, non lo so, sai, un pochettino come si è abituati da piccoli, no? Sì, Sì, probabilmente sì. Certo, indubbiamente. È una vacanza mentale più di posto, dove tu ti senti in vacanza. no, questo è senz'altro vero. esattamente. Allora, Fiorella, Dimmi. ci vuoi spiegare l'argomento? Ce lo vuoi introdurre in poche parole l'argomento di questa sera? Semplicemente? Sì, è Semplicemente. meglio semplice in ogni caso. Sì, semplicemente, semplicemente donna. Dunque, come voi sapete, mi chiamo Fiorella, certo, ma sono venuta qui anche per parlare alcune volte della VAI, dell'Associazione Volontarie Italiane. E siamo ritornati dalle vacanze e abbiamo, per raccogliere fondi, abbiamo, diciamo, preparato un evento per il prossimo 24 settembre e vogliamo ricominciare, riniziare dolcemente, semplicemente al femminile, semplicemente donna. Una serata al femminile fatta da donne, certo per le donne naturalmente, però per riscoprire quella, come dire, quella parte, quell'essenza femminile che ci accompagna nella nostra vita e che accompagna anche le nostre scelte. Più precisamente, che cos'è questa serata? Poi io penso che ci sono anche molti spunti parlando di questa serata. Abbiamo pensato a una serata articolata, cioè vari aspetti. La donna, come diciamo prima, cioè per me si dice sempre multitasking, eh? Dunque, ma un multitasking è più che altro è un fare tante cose. Io penso che invece la donna sia un multidisciplinare, abbia a sua disposizione tantissimi doni e li regala in questa serata. Gli hanno regalati due soprani e una nostra amica. Dunque la prima parte della serata è musicale ed è dedicata alle donne. Dunque c'è la soprano, la Patrizia Tesena, Elisa Monzer e un mezzo soprano. Loro canteranno delle arie che racconteranno la storia della donna, chi è la donna, dalla donna gentile, dalla donna libertina, la donna seria, attraverso le più grandi arie dei grandi compositori. Dunque c'è questo excursus cantato da donne sulle donne e anche un modo di vedere i vari aspetti delle donne. Poi la seconda parte della serata è un'esposizione di gioielli che sono fatti con vetro di Murano ed è una galleria d'arte, l'Art Bear, che è gestita dalla nostra carissima amica Elvira Ragozzino, anche donna, e lei ha avuto la sensibilità di portare qui a Bruxelles delle opere fatte da un giovane artista che ha ripreso l'attività di suo padre e dunque ci offrirà dei gioielli, certo fatti per le donne, però è anche, come dire, la manifestazione di qualche cosa di bello. Io le chiamo le nostre muse, no? Il canto, l'arte, e poi ci sono le volontarie vai, e quella è anche un'altra musa, noi faremo il buffet. Siccome non si vive di solo, cioè di sola cultura, speriamo di associare qualcosa di un pochino, diciamo, più pratico. Ecco, più pratico. Dunque noi vi aspettiamo, abbiamo già mandato tutti quanti gli inviti, se volete venire, dovete venire, anche perché non è soltanto una serata di generosità, perché sono queste donne che danno il loro sapere, ciò che sanno, agli altri, ma lo danno soprattutto alla VAI, perché attraverso questa serata noi con la VAI possiamo raccogliere fondi che andranno a beneficio di coloro che ci fanno richiesta. Dunque voi sapete che la VAI lavora e opera su 360 gradi e tra l'altro attraversiamo un momento un po' critico, perché i fondi scivolano così perché sono sempre più persone che domandano, le domande di aiuto sono esponenziali e purtroppo noi non possiamo non si può arrivare dappertutto, non si può arrivare dappertutto, potremmo certo arrivare e abbiamo sempre bisogno di fondi. Dunque venite, passerete una bellissima serata, scoprirete tanti aspetti delle donne, forse anche qualcuno sconosciuto, e nello stesso tempo speriamo che la vostra presenza da spettatore passivo diventi uno spettatore attivo. In quale modo? Facendo qualche donazione alla VAI. E di essere coinvolti così, anche ognuno con un piccolo gesto, una piccola cosa, facendosi anche piacere, perché magari comprando un gioiello ci si fa anche piacere, insomma. E può far piacere e se può loro dare vengono una mano a qualcuno, certo, essere d'aiuto in qualche maniera. Dunque, se volete venire, anzi venite, potete scrivere una email a montepaschi.marketing@montepaschi.be. Dunque, ma anche se venite all'ultimo momento, sì, quindi non vi manderemo. Non è necessario, eventualmente. No. È meglio così, c'è un'idea del numero di persone che parteciperanno, sì, capisco. Anche per motivi fare organizzativi. Quante ferratelle? Va bene. Stiamo facendo i dolcetti. Ecco, le ferratelle non spieghiamo cosa sono, così la gente sarà incuriosita e vorrà provarle. Sì. Possiamo dire che sono dei dolci? Almeno dolci questo? Abruzzesi, sì. Dei dolci abruzzesi. Va bene, allora. Grazie di questa introduzione, quindi vedremo poi come si svolgerà questa trasmissione, ma che appunto prende spunto da questo spettacolo organizzato dalla VAI, che effettivamente ha un gran numero di risorse, che se le inventa tutte per così raccogliere attenzione e se possibile anche finanziamenti per le persone italiane che vivono qui e che ovviamente ne hanno bisogno. Dunque io proporrei, sì, posso, prego, solamente dire, perché prego, non so se la serata riuscirò, però tutto questo in questo momento è fatto, è stato potuto, può succedere anche grazie a una generosità del Monte dei Paschi qui in Belgio, la direzione, perché noi sappiamo che le istituzioni sono fatte di persone, cambiando le persone cambiano anche l'approccio delle istituzioni verso le persone. Noi ci sentiamo sempre confortate, coccolate dal direttore, dottor Fabio Giannotti, e lui ha un gruppo di donne intorno, Francesca, Pamela e Lucia. Sì. Dunque anche lì c'è anche dall'altra parte un gruppo di donne che intercorre con noi. Però noi lo possiamo fare grazie anche alla loro sensibilità, loro ospitalità. Questo ci tenevo a dirlo, non l'ho mai fatto pubblicamente, però voilà, tenevo. D'accordo. Allora, dopo questa introduzione, quindi passiamo ad un altro brano musicale e ci ritroviamo fra pochi minuti. Mi raccomando, rimanete sintonizzati con noi in diretta su Radio Alma con i colori dell'anima e resteremo con voi fino alle 22. A fra poco! Ed eccoci di nuovo in studio con i colori dell'anima, appunto, in compagnia di Anna Maria, Fiorella e anche di un ospite che forse adesso vuole parlare. Buonasera, signora ospite. Ciao a tutti, buonasera. Allora, Monica, ciao. Ciao. Sei arrivata, quindi aspetta perché ti devo trovare il microfono giusto. Vediamo se è questo. Mi sentite? Sì, adesso meglio. Ok. E allora, sei arrivata oggi dall'Italia? Sì, sì, sì. E per trascorrere qualche giorno tra Bruxelles e Lovanio? Esatto, sì. E insomma, ti piace il Belgio, a parte il tempo? Sì, lo trovo molto interessante il Belgio. Vabbè, poi ho un legame familiare perché mio padre è nato qui più di 60 anni fa, in Vallonia. Sì. Quindi hai un po' le radici in Belgio? Sì, esatto. Ecco, va bene. Allora, spero che la tua permanenza qui possa essere piacevole. Ah, sì, dai. E magari, chissà, se hai qualche donna a cui, di cui parlare, poi dopo lo vedremo. Sì, d'accordo? D'accordo. Allora, dunque, torniamo a Fiorella, perché Fiorella oggi è stata eletta animatrice di questa trasmissione, suo malgrado, possiamo dire così? Dunque, Fiorella, si occupa e lavora attivamente per la VAI, che è l'Associazione Volontaria Assistenza Italiani, e sta organizzando e coordinatrice di un evento che si chiama Semplicemente Donna. Allora, Semplicemente Donna ci ha fatto venire in mente che forse potremmo parlare di donne, perché no? E in che modo parlare di queste donne? Allora, si potrebbe andare molto, ma molto all'indietro, da Adamo ed Eva, comunque, e, perché ti ricordi, abbiamo parlato della nostra teoria per arrivare ai nostri giorni. Possiamo anche guardare le donne che noi abbiamo incontrato nella nostra vita, cioè prima di affrontare le donne più importanti che ci hanno colpito dal punto di vista letteratura, scienze e tutto quanto. Io penso che le prime donne che ci sono intorno, le mamme, le zie, le nonne, sono quelle che marcano anche certe nostre scelte di vita, certe cose. Indubbiamente. Che non... Ecco. Marcano, ci fanno fare i primi passi. Sì, ci fanno fischiare l'orecchio, no? Come dice. Assolutamente. Sì, cioè nel senso che io sono una mamma molto italiana e quando ero giovane dicevo no, non lo farò mai come mia mamma e invece ho fatto Esattamente la stessa cosa. Cioè, la cosa importante è quando tu dai un'educazione ai figli è dirle così tante volte le tue cose che anche quando loro sono da soli gli fischiano le orecchie perché si ricordano che mamma ti dice così, no? Non so se tu hai visto, sta circolando su Facebook le difese, le armi delle mamme, no? Le cucchiaie i cucchiai di legno, che sono armi dissuasive, poi la scarpa, il sandalo, quello di gomma, è un'arma di distruzione, il sandalo di legno, quello che ti dirà presto, è un'arma di distruzione di massa. Ed io non l'ho vista, ma sospetto di averle provate. Sì, le cucchiaie di legno. Più che altro la ciabatta. Sì, dunque, e noi riproponiamo queste cose, dunque, io per esempio ho, i miei genitori sono di due regioni differenti, mia mamma è abruzzese, mio padre invece della Campania perché è di Cassino, sono due, veramente due, forse mentalità differenti, la Campania e la, come dire, e la montagna, con due nonne anche esteticamente molto differenti, perché una mia nonna era quella campana era bionda, molto fine, con gli occhi azzurri, molto slava. Quando ho vissuto in Jugoslavia, io la rivedevo in tutte queste signore che vedevo. Addirittura. Sì. Mentre l'altra, mio nonno materno, che era in montagna, era alto, biondo, con gli occhi azzurri, mia nonna invece piccolina, un po' grassottella, mora, mm-hmm. con i capelli neri. Dunque, completamente l'opposto. E sono due figure che mi hanno accompagnato e mi accompagnano ancora. La mia nonna paterna... Perché sono, in fin dei conti sono queste le cose che ci ricordiamo delle donne, sì. No? Non, a volte non le grandi cose, e vogliamo anche ricordarcele. Perché mio papà ha vissuto a Cassino, sai, zona di guerra, di passaggio degli americani, e io mi ricordo che mia nonna, quando ero piccola, mi tirò fuori una volta da uno stipo. Lo stipo è quella, come si dice, quell'armadietto dove vengono tenute tutte le vivande. La scanzia da noi scanzia. Si chiama. Questo è molto più figo, questo è molto più scicchetto scicchetto. No, si chiama lo stipo, vero Rosanna? Stipo. Allora, eccoci, quindi stavamo parlando dello stipo, eravamo rimaste. Sì, io mi ricordo, sì, sì. Sì, lo stipo, sì, per me, la credenza, diciamo. È la credenza, ma lo stipo è quello al muro, però. Ah, la credenza è quella esterna, un'armadia a muro. Si chiama io stipo. Queste sottigliezze non le conoscevo, vabbè. Ma tu sei troppo giovane. Vabbè. Niente, mi ricordo che mia nonna mi tirò fuori un tubetto di latte, sai, di quello condensato, quello Nestlé. E per me mi fa, dice, questo l'ho ottenuto da quando passarono gli americani. Dico, immagina. Cioè, non altro che data di scadenza. Io non ho mai visto la galla di scadenza. Cioè, ma all'epoca non si vedevano date di scadenza, basta che era buono, poi se c'era un po' di muffa bastava toglierlo e si faceva così. Dunque, io adesso come adesso ho sempre nel frigorifero un tubetto di latte Nestlé, che poi ogni tanto ci do qualche leccatina perché mi piace, e questo mi ricorda mia nonna paterna. Mentre quella materna era più, come dire, più, non dico eterea, ma più dolce, più, non lo so, aveva quattro figlie femmine, due maschi, il marito emigrante, cioè è stato emigrante, poi prigioniero e tutto quanto, ha sofferto moltissimo, in montagna la vita non era, all'epoca non era molto semplice. Però mi ricordo che lei aveva sempre una boccetta di acqua di rose, della Roberts, ti ricordi? E lei, siccome sta in montagna, l'acqua era fredda, ghiacciata, lei tutte le sere si lavava con l'acqua di rose. Quindi ho sempre una bottiglietta di acqua di rose dentro la... E poi facevo le migliori patatine fritte, quelle tonde. Ah, la patatina fritta tonda. Sì, ma la tonda, quella tutta sì, quanta sì, in mano. Sì. E dunque, diciamo, e poi naturalmente mia mamma, logico, la mamma, la mia zia, io ho vissuto in un ambiente tipicamente femminile, un ambiente femminile di spirito anche mio papà, io e mia sorella siamo le uniche femmine di tutta la famiglia. E loro hanno sempre spinto affinché noi fossimo indipendenti, soprattutto indipendenti di testa, culturalmente. E questo è molto importante. Sì, perché hanno sempre detto che la cultura è un qualcosa che non viene tolto. E questo mi rifaccio un pochettino, come a Maite piace molto la, ripetevi non piace, a me piace molto la Margherita Hack, che è morta purtroppo di recente, a 90 anni. Mi piace tantissimo perché lei adora i gatti. Io sono una... Sei un amante dei gatti. Anche io sì. Ho tanto. Sì, ecco. Sì, poi sì. Gatti neri, tra l'altro. Il gatto, il cane, vabbè, ci sopportiamo, esistiamo, però sì. Non è che c'è tutto questo amore. Però lei amava molti gatti. Aveva questo rapporto con il marito, Aldo, lei lo chiamava l'enciclopedia vivente, perché bastava fare una domanda e lui sapeva tutto. Questa casa piena da migliaia e migliaia di libri, che solamente ultimamente sono stati catalogati. Lei diceva, lei si batteva sempre per le sue conoscenze e volevo leggere un pochettino quello che è stato detto quando è morto dal nuovo direttore dell'Istituto di Astrofisica di Trieste. Tra l'altro questo istituto, quando lei è arrivata nel 66, era nel centro della città, dunque lei l'ha costruito, è diventato di fama internazionale, adesso mondiale, dunque anche questa sua voglia, questo entusiasmo, lei suonava anche il sassofono tra l'altro. E lui parla dunque il... Non mi chiedete il nome perché l'ho scritto male. Non riconosco il nome. Va bene, passiamo oltre. Sì, ecco. E parlando appunto della Margherita, che diceva il disinteresse di una certa classe politica nei confronti della ricerca, che faceva infuriare tanto Margherita con una veemenza degna di un giovane che vuole contribuire a creare un mondo migliore. Perché la Hack è stata sempre così, sì. Molto attiva, eccetera, eccetera. La sua passione non era altro che la traduzione della prassi quotidiana, della sua profonda convinzione che l'uomo è l'artefice del proprio destino e che la scienza e la conoscenza altro non sono se non uno strumento con cui l'uomo si appropria del proprio destino. Dunque, e lei si è sempre battuta per questo modo di essere, di la scienza, ma poi era una persona sola, cioè si può dire anche stellare, assolutamente. Adesso ho comprato, certo, tutti quanti i suoi libri. Era una persona che amava la bicicletta. Cioè, tu dicevi che cos'è la donna. Io penso che noi nelle donne vediamo tantissimi aspetti, no? La donna si fa conoscere, l'uomo no. Sì, indubbiamente. Ma la donna si fa conoscere, si espone, è generosa, indubbiamente, con gli altri, aiuta gli altri, ma è molto generosa perché da se stessa. L'uomo no, l'uomo da una parte, da un aspetto di se stesso e basta. È monotematico. Eh? Come dire che è monotematico. Vabbè, fa, cioè, una cosa, due non riesce a fare, eh? Invece, secondo me, la donna è multisfaccettata. Cioè, tanti, le puoi vedere in tante prospettive, no? Comunque, è vero che avremmo dovuto anche invitare un uomo a dire la sua opinione, ma vabbè. Perché siamo un pochino di parte, direi. Siamo un po' di parte, sì. Molto. No, comunque, visto che appunto è stata citata Rita Levi Montalcini e visto che non sapevo che era ebrea, ma è una donna che ammiro, volevo solo dire proprio brevemente due parole, perché è una donna nata nel 1909 che, come sapete, è nata, aveva più di 100 anni, sì. 102 mi sembra quando è morta, e ha studiato, praticamente ha dedicato tutta la sua vita agli studi sul sistema nervoso, e tra l'altro lei ha fatto anche un'esperienza di studio qui in Belgio prima di essere stata poi negli Stati Uniti e in Brasile. Comunque, diciamo che la maggior parte dei suoi studi li ha fatti appunto fuori dell'Italia, ed è grazie a questi che poi ha preso il Nobel nel 1986. Ma volevo parlare di lei, poi appunto è diventata anche senatore a vita nel 2001, insomma ha fatto un sacco di cose, ha scritto tanti libri, però mi premeva anche parlare di lei nella circostanza di oggi, perché si deve a lei una fondazione che si chiama appunto la Fondazione Rita Levi Montalcini Onlus, che è una fondazione che sostiene le giovani donne del continente africano, perché appunto Rita Levi Montalcini era, diciamo, sosteneva la causa delle donne, infatti è stata una grande promotrice delle donne proprio nel campo della ricerca, ma in generale. E questa fondazione è stata costituita da lei stessa nel 92 in memoria del papà Adamo Levi. Effettivamente, ecco, adesso che leggo Levi, penso che Levi è un cognome tipicamente ebreo. Adesso ci sto riflettendo. E quindi il motto di questa fondazione è il futuro ai giovani, con lo scopo appunto di favorire l'orientamento allo studio e al lavoro delle nuove generazioni, diventata operativa quindi nel novembre dello stesso anno, cioè nel novembre del 92. E io sono orgogliosa perché l'ho incontrata a Bruxelles nel 96, mi sembra, e le ho potuto stringere la mano e dirle quanto l'ammiravo. E questa era ancora una giovinetta nel 96, aveva solo 87 anni. E questo cosa ti ha, quale impressione ti ha lasciato? Di stupore, perché era lei una donna che si stupiva con la sua curiosità, anche forse con la sua fisicità, una donna piccola piccola, magra magra, e che però in questo suo contenitore, diciamo così, così piccolo, aveva una grande energia. Poi lei stessa diceva sempre che la notte dormiva, non so, 2-3 ore, che non aveva bisogno di più di dormire, perché aveva così voglia di fare le sue ricerche, di studiare, di leggere. Mi ha stupito la sua voglia. Ne vediamo comunque di donne piccole che e piene di energia. Piene di energia, tu ne conosci, cioè. Io ho incontrato tante donne di tutte le stature, se ne vogliamo parlare, ma di donne piccole e energiche, sì, indubbiamente. Anche mia nonna era 1,50 m, non è che fosse una donna altissima, e per tornare al discorso delle nonne prime che ci lasciano, lei era una persona, per esempio, estremamente semplice, però aveva sempre qualche proverbio paesano piccolino, ma ti dava delle stoccate che ti insegnava la vita con poche parole, le cose veramente più semplici. E lei sì, mi ha lasciato tante cose. Ed era piccolina. Vabbè, insomma, non voglio dire che solo le piccoline. No, però è che così di Rita Levi Montalcini mi ha colpito la sua statura e la sua magrezza. Però volevamo parlare, ti ricordi, di un'altra piccolina magra che ha inciso moltissimo. Panico. Come? C'ho un voto di memoria, dai, suggerisci. il tuo idolo, Madre Teresa di Calcutta. No, ne volevo parlare io. Ah, è il suo idolo. È il suo idolo. No, è il mio idolo. Allora, però io propongo di ascoltare ancora un brano musicale prima di ritornare a questa piccoletta. Ma infatti sì, ho scelto proprio questi due personaggi, Rita Levi Montalcini e Madre Teresa di Calcutta, che sono nate più o meno nello stesso periodo, una 1909 e un'altra 1910, tutte e due fisicamente proprio piccole, e però che hanno rivoluzionato il mondo. Allora, sì, comunque, ritorniamo fra pochissimi minuti. Mi raccomando, rimanete sintonizzati con noi e a fra poco. E questa era Laura Pausini, naturalmente nella trasmissione I colori dell'anima, che vi ricordo va in onda ogni lunedì dalle 21 alle 22. Allora, abbiamo accennato a Madre Teresa di Calcutta e Anna Maria, se puoi leggere. Sì, vorrei leggere una poesia e quindi mi lancio. Lanciati. Il titolo è La vita è. La vita è un'opportunità, coglila. La vita è bellezza, ammirala. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. La vita è una sfida, affrontala. La vita è un dovere, compilo. La vita è un gioco, giocalo. La vita è preziosa, abbine cura. La vita è una ricchezza, conservala. La vita è amore, godine. La vita è un mistero, scoprilo. La vita è una promessa, adempila. La vita è tristezza, superala. La vita è un inno, cantalo. La vita è una lotta, vivila. La vita è una gioia, gustala. La vita è una croce, abbracciala. La vita è un'avventura, rischiala. La vita è pace, costruiscila. La vita è felicità, meritala. E la vita è vita, difendila. Ecco, io penso che di Madre Teresa non c'è altro da dire. Basta leggere queste righe, quindi non dirò altro. Basta. Ho detto tutto. Anzi, grazie ad Anna Maria che ha letto. Grazie a voi, mi piace leggere le poesie. Sì, infatti. Ti nominiamo lettrice ufficiale di poesie. No, ma vedi lì l'aspetto femminile, cioè delle Madre Teresa di Calcutta, come anche queste altre donne di cui abbiamo parlato, no? Montalcini, sì. Anche come la, sono donne che hanno una grandissima curiosità, hanno gli occhi sul mondo, sulle persone, e si sono lanciate, cioè, si sono lanciate a vivere la vita effettivamente, tutti i suoi aspetti, belli, brutti, difficili, però non si sono ritirate, hanno combattuto. Assolutamente, specialmente in questo caso, sì. Nella vita più difficile, nelle situazioni più misere. Non si sono mai arrese. No, se le sono andate a cercare. Se le sono ancora andate diverso. A cercare, esattamente. Cioè, esattamente, infatti. Ed è estremamente ammirevole, perché non tutti hanno la forza di poterlo fare. Certo. Però si può anche dire, sì, qui abbiamo visto alcune figure che hanno spiccato, no? Che hanno avuto una forza interiore molto. Però non bisogna anche dimenticare che le donne di tutti i giorni devono combattere la loro guerra. Ah, sì, assolutamente. Dunque, anche se non eclatante, però loro mandano avanti una guerra quotidiana, guerra fra virgolette, però adesso soprattutto con le crisi economiche, dunque sono quelle che devono far pareggiare, devono portare qualcosa in tavola la sera, devono portare i bambini, devono anche sopire certe voglie dei figli, mamma voglio quello, voglio quell'altro, invece no, bisogna convincerli che forse non è il momento, e ci vuole tutta una fase di contrattazione, giusto? Assolutamente. Dunque, è una, adesso, cioè, sempre stato un pochettino il ruolo della donna, no? Io adesso pensiamo un attimino alle donne che sono venute in emigrazione, tantissimi anni fa, 50 anni fa. Io mi ricordo, avevo incontrato una signora siciliana, mi disse, sai, mio marito lavorava qua nella miniera e mi portò allora all'Alluvière. E veniva dalla Sicilia, dice, io ero partita il mese di agosto, c'era un bel sole e qui pioveva, era tutto grigio, Eppure tutte queste donne hanno fatto sì che tutto questo ambiente in cui noi viviamo fosse anche più gradevole per tutti quanti. È caloroso, certo. È caloroso, cioè sono loro che fanno sì che il quotidiano sia accettabile per tutti quanti. Giusto? Giusto. Dunque, giustissimo. Anche per loro sono tutte eroine. Sì, sì, io direi che dalla sì. prima all'ultima sono delle eroine, indubbiamente. Sì. Siamo, insomma, siamo un po' tutto, forse nasciamo con sì. Questo piccolo dono, che però non dimentichiamo che chi ci sta accanto ci sostiene. Adesso non è che facciamo tutto noi da soli. No, ma non ma possiamo dire questo, perché altrimenti scendiamo in un discorso un pochino troppo semplice. Come dicevo semplice. Prima, la Margherita che aveva un marito straordinario. Esattamente, accanto. Esattamente. Quindi, io devo dire, dico pubblicamente, c'ho un marito straordinario accanto. Cioè, tutti quanti abbiamo i nostri papà, per esempio, che ci hanno portato avanti. Certamente, certamente. Abbiamo sempre avuto bisogno, anzi, l'equilibrio fra il femminile e il maschile porta a un certo successo morale interno, sì, no? Sì, porta al nostro poter dare, ricevere con tutta semplicità, con tutta normalità, perché abbiamo queste due forze, le chiami maschile e femminile, le chiami yin, le chiami yang, come ti pare, però questo equilibrio fa sì che un uomo e una donna siano in pace con l'universo. Esattamente, sia un successo, ecco, quando ci sono due persone che riescono a completarsi, così si può parlare di un successo. Infatti non c'è contrapposizione, non c'è... Assolutamente no. È solamente assolutamente gli uomini che lo pensano, noi no. E facciamoglielo credere. Sì. Allora, comunque Fiorella, vogliamo ridire anche le informazioni dello certo. spettacolo, perché magari non tutti erano sintonizzati sulla nostra radio all'inizio della trasmissione. Ok, vi aspettiamo alla serata Semplicemente Donna, è una serata fatta da donne, per donne e non solo, il 24 settembre alle ore 19, non abbiamo detto dove prima, lo diciamo adesso, all'Espace Monte dei Paschi, Avenue d'Auderghem, scusate, 22, a 22, dunque verso Place d'Auderghem, Place Schumann. Dunque è una serata, c'è un programma, ci sono tre momenti. Il recital di canto, La donna immobile, con Patrizia De Sena, soprano, Elissa Monser, mezzo soprano, e Benjamin Epp, il piano. Poi c'è un'esposizione di gioielli di fantasia, sono realizzati in vetro di Murano e presentati dalla Galleria d'Art Ver di Villa Ragozzino, due grandissime amiche. Tra l'altro devo dire che abbiamo chiesto se potevano fare qualcosa per la VAI, e loro si sono offerte spontaneamente, dunque c'è anche questa grande generosità, la donna dà quello che può, e se c'è qualcuno che chiede, se ha bisogno, è come si va in aiuto degli amici, giusto? Giusto. Loro, sia la De Sena sono, e la Ragozzino sono due nostre grandi amiche personali e della VAI, e beh, quando un amico ha bisogno, cosa fa la donna? Va. Al limite porta ferratelle, porta qualcosa e si va, si ascolta, eccetera, eccetera. E poi, visto che non si vive solamente di cultura, servirà il buffet fatto dalle volontarie della VAI. Dunque vi aspettiamo il 24 alle ore 19. Avete la possibilità di essere spettatori attivi e non solamente spettatori attivi, passivi, perché potrete con la vostra presenza dare un contributo concreto alle opere della VAI. Voi sapete che la VAI si occupa degli italiani in difficoltà qua in Belgio, dunque voilà, vi aspettiamo. Va bene, e appunto grazie a questa iniziativa abbiamo così parlato di alcune donne che hanno caratterizzato la nostra vita, delle donne che ammiriamo, ma Anna Maria, tu avevi preso così... No, non è che possiamo adesso andare nel dettaglio, perché mancano 5 minuti alla fine della trasmissione, però... C'è qualche personaggio dice, di qualche personaggio che magari un pochino meno conosciuto, da alcuni sì, da alcuni no, insomma. Per esempio abbiamo Florence Nightingale, che sì. è la fondatrice della Croce Rossa, quindi un personaggio... Una cosa che mi ha colpito è stato scoprire che ha inserito la statistica in quello che è appunto il campo infermieristico. Cioè a me piacciono le statistiche, stranamente, quindi questa correlazione fra la statistica e la Croce Rossa, insomma tutto questo genere di cose, ma un pochino stupito, però effettivamente questo è un personaggio che ha... Sì. diciamo che ha creato un sistema di lavoro sì, più che... Sì. Posso interromperti un attimo? Sì. Perché Monica invece ha detto di aver letto la prima donna laureata al mondo. Esatto, la prima donna laureata al mondo è una donna veneta nata a Venezia il 5 giugno del 1646. Si chiamava Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, detta semplicemente Elena Lucrezia Cornaro, ed era figlia di un gentiluomo che si chiamava Giovan Battista Cornaro e di una signora di umili origini, Zanetta Boni. E lei ha, ha ricevuto la prima laurea, la prima laurea diciamo data a una donna in tutto il mondo. Sto leggendo qui da Wikipedia nel 1669 dall'Università degli Studi di Padova. Uh-huh. Ecco, interessante. E all'inizio lei e il padre avevano aspirato ad avere la laurea in teologia, però a quel tempo diciamo era impossibile pensare di attribuire una laurea in teologia a una donna, quindi uh-huh. diciamo le venne data una laurea in filosofia molto più diciamo più versatile come titolo accademico. E a lei sono stati dedicati dei riconoscimenti, in particolare leggo qui che nel Palazzo del Bo, che è la sede dell'Università di Padova, le è stata ricordata una statua, mentre c'è un mezzo busto sempre a Padova nella Basilica di Sant'Antonio di lei. E in più qui leggo che le è stato anche dedicato un cratere sul pianeta Venere. Bello. Sempre, grazie. Diciamo, un tema di donne. Grazie, grazie. Anna Maria, tu avevi qualcun'altra? Un altro personaggio sì. che forse è ancora meno conosciuto si chiama Rosa Parks. In America, qui parliamo sì. di un'altra situazione sì. che non ha nulla a che vedere, questa signora era un'attivista per i diritti civili uh-huh. e sembra che balzò l'onore nelle cronache quando si rifiutò di cedere il suo posto sull'autobus ad un bianco. Uh-huh. E da qui partì, questo fatto scatenò tutto il boicottaggio degli autobus di Montgomery sì. a cui poi si associò anche Martin Luther King. E quindi una persona che magari credo che semplice... abbiano fatto un film l'anno sì. scorso o due anni sì. fa sì, una persona anno. Che così sì. magari io conoscevo a malapena e che però mi ha colpito questo da un gesto di una persona certo. che insomma si rifiuta di certo. stare determinate, certo. a determinate cose magari certo. si scatena qualcosa di molto più grande. Va bene, allora veramente abbiamo solo un minuto, ma io vorrei ricordare, l'hai detto già tu, ma lo ricordo anch'io, dello spettacolo Semplicemente Donna, che ci sarà quindi martedì 24 settembre alle ore 19 presso l'Espace Banca Montepaschi Belgio, Avenue d'Auderghem 2228. Siete tutti invitati, prima di tutto perché sarà un bello spettacolo di musica e di artigianato, ma anche perché la vostra presenza potrà aiutare a raccogliere i fondi per l'associazione che si chiama appunto VAI, Volontarie Assistenza Italiani. E quindi prendo questa occasione per ringraziare di cuore Fiorella, perché stasera così sei venuta ad animare in modo particolare la serata, grazie mille. No, sono io che vi ringrazio a voi, siete sì. sempre molto care, molto gentili. E comunque, visto bene. Che a te piace venire in radio, spero che tornerai presto. Sì, facciamo complicatamente uomo la prossima volta. Benissimo. Grazie, grazie a te Anna Maria. Grazie a te Rosanna. E noi ritorneremo più o meno fra un mese, perché come sapete ci alterniamo con altri animatori in radio, quindi ma ogni lunedì mi raccomando ascoltateci assiduamente. Grazie a Monica. Grazie. E buonasera a tutti i radioascoltatori dei Colori dell'Anima. Ciao ciao. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti.